Primo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, primo canto. Percorrer miglior acque, alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poi che vostro sono, e qui Caliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto tosto ch'io uscì fuor de l'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeto che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. I mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuor ca la prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle. O settentrional vedovo sito, poi che privato sè di mirar quelle. Com'io da loro sguardo fui partito, un poco me volgendo all'altro polo, là onde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dee a padre alcun figliuolo. Lunga la barba e di pel bianco mista, portava ai suoi capelli simigliante, dei quai cadeva al petto doppia lista. Li raggi delle quattro luci sante fregiavan sì la sua faccia di lume, ch'il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la pregione eterna? Diss'el movendo quelle oneste piume. Chi va guidati o che vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte o è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi die di piglio e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio. Poscia rispuose lui, da me non venni, donna scese del ciel, per li cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. Ma da che tuo voler che più si spieghi di nostra condizion, com'ella è vera, esser non puote il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volger era. Sì, com'io dissi, fui mandato ad esso per lui campare, e non lì era altra via che questa per la quale i mi son messo. Mostrata ho lui tutta la genteria, e ora intendo mostrar quelli spirti che purgan sé sotto la tua balia. Com'io l'ho tratto, saria lungo a dirti. Dell'alto scende virtù che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte, ove lasciasti la vesta, ch'al gran dì sarà sì chiara. non son li editti etterni per noi guasti? Che questi vive e minos me non lega, ma son del cerchio ove son li occhi casti di Marzia tua, che in vista ancor ti priega, o santo petto, che per tua la tegni, per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lasciane andar per li tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser mentovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei, mentre chi fu di là, diss'egli allora, che quante grazie volse da me, fei. Or che di là dal mal fiume dimora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu quando me n'uscii fora. Ma se donna del ciel ti move e regge, come tu di, non c'è mestier lusinghe, bastisi ben che per lei mi richegge. Va dunque, e fa che tu costui ricinghe d'un giunco schietto e che li lavi il viso, sì ch'ogni sucidume quindi stinghe, che non si converria l'occhio sorpriso d'alcuna nebbia andar dinanzi al primo ministro che è di quei di paradiso. Questa isoletta intorno adimo là giù colà dove la batte l'onda porta di giunchi sovra il molle limo, null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote aver vita, però ca le percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra reddita, lo sol vi mosterrà che surge omai prendere il monte a più lieve salita. Così sparì, e io su mi levai senza parlare, e tutto mi ritrassi al duca mio, e gli occhi a lui drizzai. El cominciò, figliuol, segui i miei passi, volgianci indietro, che di qua dichina questa pianura a suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano com'om che torna alla perduta strada, che infino ad essa li pare ire in vano. Quando noi fummo l'ave la rugiada pugna col sole per essere in parte dove ad orezza poco si dirada, ambo le mani in su l'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose, ond'io che fui accorto di sua arte porsi ver lui le guance lagrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto che mai non vide navicar sue acque omo che di tornar sia poscia esperto. Quivi mi cinse sì come altrui piacque, oh maraviglia, che qual elli scelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente là onde la velse. Fine del primo canto del Purgatorio.